Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Abbiamo dedicato non molto tempo fa una puntata al tema dell'eco driving, cioè alla guida ecologica, e abbiamo visto come alcuni comportamenti, come evitare accelerazioni e frenate brusche, permettano un significativo risparmio di benzina senza per questo causare un rallentamento. Tenete presente che la velocità media in città è comunque di 15 km/h, quindi correre in realtà serve solo a passare più tempo fermi in coda o al semaforo. Non solo, sulla stessa strada, se tante persone hanno una guida nervosa, quello che succede sono fenomeni come le code a tratti e altri tipi di ingolfamento vario del traffico. Ebbene, questa sera parliamo di un progetto EXIT che nasce dalla collaborazione tra l'Università della Bicocca di Milano, l'Università di Tokyo e la Honda. Insieme stanno mettendo a punto una sorta di consigliere di bordo capace in tempo reale di insegnarvi a guidare con intelligenza. Ce ne parla Chiara Albicocco, che ha incontrato Giuseppe Vizzari, ricercatore presso il Centro di Ricerca Sistemi Complessi e Intelligenza Artificiale dell'Università della Bicocca. Sentite. L'idea è che tramite tecnologie molto, molto semplici, perché non si vuole avere un impatto negativo sulla possibilità del guidatore di operare sul veicolo, con semplici indicazioni sul fatto di mantenere una distanza di sicurezza dal veicolo precedente maggiore e moderare la velocità e non avere accelerazioni e decelerazioni improvvise. Ecco perché, mi scusi, questo comportamento di avere appunto la guida un po' schizofrenica. Fondamentalmente il comportamento più reattivo e nervoso alla guida tende a far salire significativamente il consumo, inoltre può portare a delle congestioni e, diciamo, a volte in particolare una delle cose che si vuole andare a verificare è l'impatto invece di una guida virtuosa sulla possibilità di evitare l'insorgere di code a tratti, per esempio. Certo. In che modo lo facciamo? Allora, sostanzialmente i veicoli sono dotati di dispositivi tecnologici che con minimo impatto sul guidatore segnalano semplicemente delle indicazioni di guida. I dispositivi in realtà raccolgono dati come il posizionamento, l'accelerazione e altro ancora, che vengono comunicati ad un centro elaborazione centrale che rimanda ai dispositivi collocati sulle auto queste indicazioni da dare al guidatore. Wireless completamente? Sì, tramite rete 3G cellulare. L'idea è di utilizzare tecnologie leggere e non impattare pesantemente sulle infrastrutture e vedere quanto con questo genere di approccio si può andare a migliorare la situazione e del singolo guidatore, del singolo veicolo e del traffico nel suo complesso. Quello che state sperimentando di fatto sarà poi un'applicazione che sarà scaricabile appunto sul nostro smartphone e che ci permetterà di visualizzare dei segnali appunto che ci dicono ok vai, ok non vai, la macchina davanti è troppo distante o la macchina davanti è troppo vicina. Sul display sono veramente delle informazioni minimali, sostanzialmente il display conferma al guidatore che il suo stile di guida è adeguato, con una luce, semplice luce verde, oppure con una luce di colore blu segnala il fatto che è più adeguato all'attuale situazione un comportamento che riduca il numero di frenate e accelerazioni, aumenti la distanza dal veicolo che precede, in modo tale da evitare appunto un comportamento reattivo e un aumento del consumo. Ecco, il perché di tutto questo esperimento invece lo chiediamo alla direttrice del centro e la docente di intelligenza artificiale proprio qui all'Università Milano Bicocca, Stefania Bandini. Il significato di questo esperimento, al di là dell'interesse che può dare dal punto di vista scientifico, perché è la prima raccolta dati in un ambiente reale, non in un ambiente da laboratorio come sono ad esempio i circuiti automobilistici su cui abbiamo già fatto delle prove, riguarda in modo più ampio l'applicazione di nuovi scenari scientifici derivati dalla scienza della complessità per risolvere problemi che sono la nostra vita quotidiana. Il traffico. Allora, se vogliamo vederlo proprio come un sistema dinamico complesso, sappiamo che il comportamento locale dei singoli guidatori può influenzare il comportamento globale di tutto il sistema, così come succede in tante realtà che noi viviamo tutti i giorni ma che non vediamo magari in questo modo. Faccio un esempio facilissimo: quando noi vediamo la ola allo stadio, quello è un esempio di una onda globale che deriva dal comportamento elementare, stai seduto, stai in piedi, dei singoli individui allo stadio. Ecco, è la stessa cosa. La formazione di queste onde di traffico dipendono dai singoli guidatori, ma sotto quelli che sono i vincoli e le regole che provengono dal sistema semaforico e ovviamente dalle leggi sulla velocità e su stai a destra, stai a sinistra, frena, eccetera. Quindi c'è una complessità globale che è data da regole che impongono un comportamento, regole locali che vengono applicate dai singoli guidatori, a cui vanno aggiunti gli stili di guida di ognuno, perché uno quando è nervoso, pressa quello che gli sta davanti, quando uno è più rilassato, va lento, ci sono diverse condizioni e anche diverse attitudini psicologiche e sociali che sono coinvolte in modo da poter essere nella realtà. La realtà non è la strada, non è la macchina, ma sono le persone che ci sono sopra. Quindi, se vediamo uno scenario futuro in cui ci sarà una forte integrazione tra mobilità veicolare, guidatori e le tecnologie wireless e telefoniche che sono sempre più sofisticate, vedremo che questo insieme composto e integrato sarà quello su cui sfidare dei nuovi modelli di guida. Questi modelli di guida, se sono virtuosi, portano anche al minor consumo di energia, di carburante e quindi minor impatto a livello di emissioni, ecco, questa sarà una cosa molto positiva. Quindi una ricetta di tecnologie che però hanno a che vedere con il coinvolgimento delle persone, di come sono fatte, credo che sia doveroso nel futuro, anziché essere sempre la ricerca di regole, segnali, punizioni, multe. Cerchiamo un attimino di andare verso un'autoeducazione. Grazie professoressa. Per stasera ci fermiamo qui, l'appuntamento è per domani, buona serata.